stato un regista, un autore a tutto tondo, fondamentale, che ha saputo incidere con poche opere di fatto in maniera fondamentale su tutto l'immaginario degli ultimi almeno 10 anni del cinema e non solo, ecco, quello sicuramente. Ritorna nelle librerie questo volume, quindi ti chiedo subito quali sono le integrazioni che troviamo rispetto all'edizione precedente. Ma allora, noi abbiamo deciso di riprendere in mano quel libro un po' perché non era disponibile, un po' perché ci sembrava il momento giusto per riaffrontare il discorso legato a Con, solo che ovviamente rispetto alla prima edizione c'era una consapevolezza diversa, cioè la consapevolezza che Con non c'era più, era mancato. Certo. Il libro era uscito più o meno un anno prima della morte di Con. Quindi abbiamo voluto rivedere tutti i testi già presenti, rianalizzandoli insomma sotto questa prospettiva, e poi abbiamo chiesto a nuovi amici, critici, saggisti di dire la loro su argomenti che avevamo trattato meno o non trattato affatto, come il pezzo di Marco Bellano sui suoni e la musica. Abbiamo coinvolto anche Massimo Soumaré, abbiamo chiesto anche, questa è una cosa che in effetti nella prima edizione non c'era, ad alcuni professionisti del settore, tendenzialmente animatori, di dire la loro da un punto di vista più personale, e nello specifico abbiamo coinvolto Francesco Filippi, Nicola Finizzi invece, e anche il montatore di, lo chiamavano Gig Robot, per dare un punto di vista diverso rispetto a quello che potevamo dare noi come saggisti, come critici, diciamo. E in effetti quella parte di quella sezione, che è la sezione che poi chiude il libro, è qualcosa che rende il libro un po' più aperto, ecco, rispetto al classico saggio dedicato a un regista e un autore. Il cinema di Satoshi Kon è molto importante per il cinema live action, anche quello americano, di grandi autori come Nolan, che si sono ispirati proprio ai suoi film. Esatto, sì, questa è una correlazione che non tutti fanno, purtroppo, però a volte è esplicitata, perché Aronofsky ha dichiarato spesso e volentieri il suo amore per il cinema di Kon, sì. Nolan un po' meno, però se tu pensi a Inception non puoi non pensare a Paprika, quindi ci sono delle sequenze che proprio riprendono pari pari alcuni momenti di Paprika, sì. E questo perché effettivamente la potenza del cinema di Kon è stata tale da, lavorando sul linguaggio cinematografico e metacinematografico, ha fatto sì che poi ci fosse un impatto così devastante da rimanere anche in quegli aspetti del cinema che non ti aspetti, esatto. Gioco di parole. E senti, come mai proprio Satoshi Kon e non un altro regista d'animazione giapponese, visto che ci sono tantissimi registi d'animazione in Giappone? Ma allora, noi in realtà all'epoca scegliemmo Satoshi Kon perché ci sembrava il più impattante. Cioè, quell'autore che con un percorso specifico, che non riguarda soltanto il suo autore, essere autore completo, quindi i suoi film, la sua serie TV, ma anche come mangaka, come sceneggiatore, come animatore, è riuscito a definire un nuovo concetto di animazione e a portare l'animazione stessa, in particolare quella giapponese, su un nuovo livello che non si era mai visto prima. E quindi all'epoca scegliemmo Satoshi Kon. Poi in realtà io personalmente mi sono occupato anche di tanti altri aspetti, sempre con Enrico avevamo curato un libro sullo studio Ghibli, quindi in realtà effettivamente di personaggi importanti in quell'universo ce ne sono molti. Però Kon ci è sembrato e ci sembra tuttora una delle figure più cruciali degli ultimi 20 anni, direi. E la tua passione per il cinema d'animazione, per Satoshi Kon, quando è nata? Ma io l'ho scoperto con il suo primo film da regista, quindi quando ho visto Perfect Blue la prima volta ne sono rimasto davvero folgorato, e quindi ho seguito con attenzione tutto il suo percorso autoriale. Devo dire che con Kon siamo stati noi italiani, intendo, un po' più fortunati rispetto ad altri autori giapponesi, perché Kon ha avuto bene o male una distribuzione più o meno diffusa, addirittura alcuni film sono usciti direttamente al cinema, e se non al cinema sono stati poi distribuiti in un video. Non è una cosa che succede con tutti gli autori giapponesi. E se dovessi chiederti l'opera preferita, l'opera del cuore di Satoshi Kon? Quella del cuore ti direi probabilmente inaspettatamente anche Tokyo Godfathers, perché è il perfetto esempio di equilibrio in cui tutte le parti delle sue ossessioni, delle sue tematiche vanno a comporsi in una fotografia, in una visione che è anche molto ottimista rispetto ad altri suoi film. E lo trovo veramente un film conciliante, divertente, appassionante, coinvolgente. Poi se invece dovessi dirti la mia opera preferita di Kon come saggista, come insomma, studioso della sua opera, probabilmente mi sentirei di dirti Paranoia Agent, perché in Paranoia Agent è riuscito, grazie anche al grosso minutaggio che aveva a disposizione, essendo una serie TV a differenza del cinema, ad affrontare tutte le tematiche che aveva comunque ben affrontato anche nei suoi film, ma lì è riuscito a dedicare ciascuna puntata a una tematica specifica nel modo in cui lo voleva fare lui, con una libertà creativa incredibile.